Vieni al Tour de France, vieni insieme a me. Un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis-Jean Bobin. E buongiorno, buongiorno anche oggi da Radio Bidon, con un buongiorno un po' più lento del solito, perché arriviamo dal lento giorno di riposo del Tour de France. Ci siamo riposati, forse sì, forse no, qualcuno ne avrà approfittato anche per fare altro. Io per esempio ho lavorato, attività che cerco sempre di non fare, eppure per anni ho disprezzato i giorni di riposo delle grandi corse a tappe perché mi obbligavano a fare altro. Quest'anno finalmente una boccata d'aria fresca mi ha fatto bene, ha fatto bene anche a Francesco Bozzi, che è qui con noi, non è più disperso sui Pirenei, ha approfittato del giorno di riposo per tornare qua. Gli diamo il benvenuto e chiediamogli perché. Sì, ciao a tutti. Sì, sono rientrato fondamentalmente per due circostanze. Una piacevole, che è l'incontro con il mio maestro Beppe Conti, e poi perché dovevo prendere un po' di soldini dalla cassa di Bidon, perché avanti a Beaujolais non ce la facevo più, insomma, fatemi godere in Francia. E invece voi altri cosa avete fatto? Oggi siamo tantissimi. Riccardo Spinelli, cosa hai fatto nel tuo giorno di riposo? Io ho studiato. E sì, il giorno di riposo è un po' una benedizione, diciamo. Cioè, serve più a noi che ai ciclisti, probabilmente, per riposare un po'. Leonardo, immagino l'avrai passato su Twitter, come al solito. Io sempre su Twitter, no, però vogliamo dire due parole sul fatto che noi continuiamo a destinare le nostre risorse ai viaggi di Francesco per portarci delle notizie di seconda o terza mano. Cioè, io su questo non sono d'accordo, prima o poi ne parleremo, faremo un sondaggio, discuteremo, vabbè. Comunque, sono stato su Twitter, il dilemma di Armindo Fonseca, che sappiamo ha origini portoghesi ma è francese. Ieri c'è stata la finale, due giorni fa c'è stata la finale degli europei, ha vinto il Portogallo e lui ha dovuto far finta di essere triste con i suoi connazionali, però ha detto che sotto sotto è esultato per la vittoria del suo Portogallo, tra virgolette. Come al solito, parlando di internet, non si può non passare da Vegard Wrenn, che ha passato il suo giorno di riposo dicendoci come funziona la formazione del gruppetto durante le tappe di montagna. Ci sono stati tre tapponi pirenaici nel weekend scorso e Wrenn ha spiegato quello che succede e ha detto che dopo la discesa, dopo la prima discesa, la discesa dalla prima salita di giornata, il gruppetto si è formato. Tutti i ciclisti che non erano stati in grado di seguire i più forti si sono riuniti tra loro e hanno controllato che ci fossero tutti. Hanno proprio fatto la conta per vedere che tutti facessero parte del gruppetto. Dopodiché non aveva importanza la squadra di cui tu eri parte, era soltanto noi, cioè gli sprinter, uomini da classica, i gregari, contro loro, cioè gli scalatori. Quindi questo è lo spirito, una grande unione di intenti per mostrare a loro, quelli forti, quelli bravi, che noi ce la caviamo, che noi riusciamo ad arrivare entro il tempo massimo. Quindi questo è un po' lo spirito che arriva dalle giornate sui Pirenei. Nonostante in questo weekend piranaico non ci sia stato uno storico guidatore del gruppetto, dell'autobus, come lo chiama qualcun altro, che è Thomas De Gendt, che invece ha passato tre giorni in fuga, si rifarà sulle Alpi, secondo me, perché ormai la maglia Pua non la prende più. La maglia che invece sembra interessare di più, almeno a livello di stampa, diciamo, è la maglia gialla, benché non è che si sia vista questa grande lotta per la maglia gialla in queste giornate pirenaiche, almeno a mio parere, poi sentiremo il parere di tutti quanti. Diciamo che noi ieri abbiamo approfittato del giorno di riposo per fare la nostra classica musette, ovvero riempire delle borse di borracce, tante borracce quante diamo come valutazione ai vari favoriti, come l'abbiamo fatto prima dell'inizio del tour. Ci confrontiamo di nuovo sulle valutazioni che abbiamo dato e non possiamo che partire da chi tutti vediamo come favorito, anche perché la maglia gialla ce l'ha, ovvero Chris Froome, su cui Francesco ha sicuramente qualcosa da dirci. Chris Froome, che si conferma in testa alla nostra modesta classifica, che indubbiamente ha dimostrato di essere in forma, in palla, vincendo la tappa 8, la tappa che finiva a Bagnères, con un'azione a sorpresa. Però nonostante questo, io una piccola critica a Froome, o comunque alla Sky, la faccio, perché secondo me hanno corso spendendo fin troppe energie nella prima parte e non raccogliendo quello che avevano raccolto gli scorsi anni, perché fondamentalmente Froome si ritrova con pochissimi secondi sui maggiori rivali. E anche se ha fatto un attacco a sorpresa, quindi si è dimostrato molto forte e ha fatto vedere i muscoli agli altri attaccando in discesa, al tempo stesso secondo me era era un attacco che evidentemente rigido, un po', non lo so, come un jazzista che non sa improvvisare un assolo, è bravo tecnicamente ma ancora non è fluido nel suonare. Quindi ecco, secondo me Froome bene, molto bene, però rischia di pagare questa tattica che non ha visto raccogliere quanto poteva nella prima settimana. Ecco, tutto qua. Io non sono d'accordissimo con Francesco, perché intanto l'azione di Froome in discesa mi ha letteralmente saltato, perché mi piacciono i corridori che sono in grado di cambiare e di sorprendere. Lui questa volta ci ha davvero sorpresi. In più credo che la Sky si sia comportata bene. È vero, come dici tu, che Froome non è riuscito a ottenere il vantaggio che alla fine della prima settimana avrebbe sperato, ma questo non dipende da una tattica che non è stata sbagliata, è stata evidentemente corretta la tattica della Sky, ma dal fatto che lui non ha avuto le gambe in salita soprattutto per fare la differenza, quella che negli altri anni, negli altri due tour che lui ha vinto, ha sempre fatto nelle prime salite. Quest'anno non ce l'ha fatta. Ecco, a proposito di corridori che sanno sorprendere e reinventarsi, sicuramente in questa categoria non rientra almeno il Nairo Quintana visto sin qui. Non so se nella seconda parte del tour ci saprà stupire. Nairo Quintana comunque nelle nostre valutazioni è ancora il secondo dei papabili. Froome aveva 4 borracce e mezzo, a Quintana ne diamo 4. Io spero che la spinta di queste 4 borracce lo porti a mettere il naso per una volta almeno al vento, perché il Quintana che si è visto in questi giorni mi ricorda più Ivan Basso che il Nairo Quintana che avevo visto fino a un paio d'anni fa. Chi vedo che dà una valutazione invece assolutamente ottimistica a Nairo Quintana è Riccardo. Perché? È stato dietro Froome, secondo me attaccherà prima o poi, state tranquilli. Si è ritagliato un po' il nome del temporeggiatore, un po' la Quinto Fabio Massimo, però io l'ho visto bene. Avevo dato come favorito a inizio tour Froome, adesso invece un po' controcorrente do Quintana, perché un po' ricollegandomi a quello che ha detto Francesco, secondo me l'attacco in discesa di Froome è esaltante, però più che un atto di forza secondo me è una sorta di dimostrazione di una debolezza in salita che ha sfogato in questo modo in discesa, e poi sta facendo un po' una corsa nervosa anche con Maika, ha avuto un po' un battibecco, quindi secondo me non l'ho visto tranquillo come dovrebbe essere il Froome conquistatore che abbiamo visto gli scorsi anni. No, ragazzi, su Quintana bisogna essere chiari, sta facendo catenaccio, lui vuole assolutamente vincere questo Tour de France e ha pensato che la tattica migliore in questa prima settimana fosse non attaccare, difendersi e portare a casa il minor svantaggio possibile da Froome. Ce l'ha fatta, nel senso che ha 23 secondi, che è molto meno rispetto a quello che aveva un anno fa, e conta sul fatto di poter recuperare tutto e vincere il Tour de France nell'ultima settimana sulle Alpi, o forse già cominciando dal Ventoux, ma non ci scommetterei. Quindi d'accordo sul fatto che non ci stia facendo divertire, ma lui è venuto a questo Tour de France per vincere più che per far divertire. Credo che se finalmente riuscirà a farcela si libererà anche di un peso psicologico che sta diventando un'ossessione per lui farcela, e poi dopo potrà davvero tornare a farci divertire come sa fare lui. Diamogli ancora una possibilità e aspettiamolo secondo me ancora un po', anche perché il contropiede è una delle tattiche sportive più vincenti in quest'anno solare. Sta funzionando alla grande, mi sembra. Basta una volta sola. Beh, buon per lui, gli auguro che ce la faccia. Io non ho mai amato chi gioca in contropiede, ho sempre amato chi gioca davanti, per cui mi tengo le mie perplessità sul Quintana della prima settimana, mi tengo alcune perplessità anche su un Fabio Aru che invece, a giudicare dalla nostra classifica di borracce, è il terzo favorito, ne totalizza 3,5. Io gliene avrei date un po' meno perché insomma è un corridore che ci ha abituato negli ultimi anni a fare questi scatti nel finale abbastanza secchi e decisivi, e non mi sembra che stia mai trovando neanche la condizione per riuscire a fare lo scatto nel finale. Anzi, ieri l'abbiamo visto perdere, chiaramente non andare alla deriva, perché Aru alla deriva non ci va mai. Però ieri ha avuto anche un grande Nibali che l'ha supportato nell'ultima salita. Ma sì, che non solo nei finali ma anche nei grandi giri in generale Aru ci ha sempre dimostrato che comunque le ultime settimane, un po' come Quintana, sono quelle che sopporta meglio, quindi ancora io darei speranza ad Aru proprio per quello, e anche perché ormai il dubbio Nibali è saltato e anzi sembra comunque disposto a dargli una mano, quindi perché no Aru, vediamo, insomma la tenacia non manca. Aru, ricordiamo che comunque si trova in 13ª posizione a 1 minuto e 23 da Froome, per cui rispetto ad altri ne ha ancora un po' da recuperare, molto più ad esempio di Romain Bardet, che è il successivo nella nostra classifica di borracce. Ma siccome mi tacciate di parlare sempre dei francesi, io di Romain Bardet non ne parlo e vi dico 3,5 borracce e lascio la parola ad altri. Sì, allora mi accollo bollo io la responsabilità di parlare di Bardet, perché mi è piaciuto molto in questa prima settimana, sempre presente, sempre vivace, e credo che soprattutto dopo il ritiro di Contador lui possa diventare quello che viene chiamato il catalizzatore della corsa, uno che può attaccare, può dar fastidio e scombinare un po' i piani degli avversari, perché è in classifica, sta bene, non è mai andato in difficoltà e può inventarsi qualcosa. No, onestamente non credo sia tra i principali candidati per vincere il Tour de France, ma per fare un po' di sano casino lì in testa al gruppo, beh sì, direi che è il principale indiziato. Il 14 luglio magari. Magari il 14 luglio insieme a Pinot, perché Pinot anche sta facendo un gran tour nonostante sia uscito di classifica, ma adesso è sempre in fuga, si è messo in testa di andare via sempre, provarci ogni giorno, e a noi questo non può che far piacere. Ok, in quinta posizione in classifica generale e nella classifica delle nostre borracce, con tre borracce, si trova un signore che abbiamo scoperto ieri che sta disputando il suo ultimo Tour de France. Che peccato. Eh sì. È un gran peccato, perché sicuramente una persona splendida, non è mai stato un corridore particolarmente spettacolare, però sicuramente è sempre stato uno che ci ha messo tanto amore in quello che faceva. Stiamo parlando di Pulito Rodriguez, lo abbiamo nominato, che ieri lacrime ha dichiarato che questa sarà la sua ultima stagione e che deve tutto al ciclismo e allo sport che ha sempre amato e continuerà ad amarlo. Una dichiarazione d'amore abbastanza toccante. E io devo dire che questa cosa mi ha fatto, come dire, dare quasi mezzo punto in più a Pulito, perché a questo punto si è scaricato di tutto. Lui da questo turno, cioè, lo potrà correre veramente a cuor leggero, e questo potrebbe essere quasi una carta in suo favore. Quello sì, però diciamo che un po' col cuore direi sì, perché ha comunque nella sua carriera avuto anche abbastanza sfortuna, perché avrebbe potuto vincere una Vuelta e un Giro e che ha perso per pochi secondi. Detto ciò, però, vedo difficile un Rodriguez che arriva in fondo a questo Tour in un buon piazzamento, anche perché ancora la bagarre vera deve cominciare, le tappe non sono tutte a suo favore. Questa settimana la vedevo un attimino più idonea al tipo di corridore che è, contando anche l'arrivo a Andorra, che era un po' a casa sua. Ok, dopo Pulito abbiamo messo quella che per noi sin dalla vigilia del Tour è una coppia di fatto, ovvero i due BMC, Richie Porte e TJ Van Garderen. Insieme totalizzano due borracce e mezzo, si trovano in due posizioni di classifica abbastanza diverse. Qui chiedo di nuovo a Francesco come li vede. Ma sì, io in realtà paradossalmente vedo Porte malino, perché ha corso troppo bene, nel senso che ha avuto sfortuna la seconda tappa, ha perso 1:40, ora è 14esimo a 2:10 e è fin troppo pimpante, e sappiamo i limiti di Porte alla lunga distanza, quindi secondo me è fin troppo in forma ora. Invece Van Garderen per me sta correndo abbastanza bene, perché si è nascosto, non ha perso troppo, perché comunque a 40 secondi, 44 mi sembra, e quindi lo vedo ancora bene, contando che c'è una cronometro. Io noto con piacere che Francesco, dal suo maestro Beppe Conti, ha imparato anche l'arte di essere criptico negli giudizi, perché dice che sta correndo troppo bene Porte, però non va bene il fatto che stia correndo bene, quindi un po' paradossale. No, a me faceva sorridere il fatto che abbiamo dato due borracce e mezzo sia a Porte che a Van Garderen. Se le sommiamo, e se loro riuscissero a sommarle poi sulla strada, diventano 5, diventano le stesse che abbiamo dato poi a Froome, ai maggiori candidati per la vittoria finale. Quindi devono trovare il modo di unire le forze, e in quel caso diventerebbero anche loro una forza da tenere in considerazione. Concludiamo la nostra musetta di borracce con un'altra strana coppia, ed è una coppia veramente strana perché si trova in questo momento sul podio insieme a Chris Froome, ovvero questo podio tutto britannico nell'anno della Brexit, con Adam Yates che è secondo in classifica a 16 secondi e Daniel Martin che è terzo a 19 secondi. Qui abbiamo tra tutti valutazioni abbastanza differenti. Io vedo uno Yates un po' più avanti, e in generale mi sembra che tutti lo vediamo un po' più avanti. Credo che Adam Yates possa tenere anche fino a fine Tour de France, secondo me, forse non la seconda posizione, sì, secondo non penso, però non mi stupirei che io su una top 10 lo metto, me lo gioco quasi quasi certo. Daniel Martin invece? Daniel Martin è rimasto in piedi fino adesso. Questa cosa per la carriera di Daniel Martin è qualcosa di clamoroso e... però il tour è ancora lungo. Comunque anch'io Yates lo vedo bene, anche perché è stato baciato dall'ultimo chilometro, quindi secondo me arriverà la benedizione dell'ultimo chilometro, dici che possa spingerlo in avanti. Perché no? Sì. Su tutti questi pende la spada di Damocle, non tanto del Ventoux e delle Alpi, perché i valori può darsi che non si discostino troppo, ma dobbiamo ancora scoprire assolutamente quali saranno i valori a cronometro. Sono crono per scalatori, però forse saranno quelle a decidere questo Tour de France a questo punto. Noi abbiamo voluto ragionare un attimo ci in maniera avanti con i tempi. Stiamo avanti, esatto. Come sempre ragioniamo un po' alla nostra maniera su quello che saranno le cronometro che verranno. Non parliamo di lenticolari, ma parliamo di crono in un altro modo e ce lo facciamo raccontare da Angelo Trofa. Salve a tutti e bentrovati. Il brano che vi presento oggi è un brano un po' particolare. Innanzitutto è tratto da un romanzo che si chiama Sfida all'OK Dakar di Otello Marcacci, e a differenza degli altri brani che vi ho presentato, questo non è ambientato al Tour de France, bensì il suo protagonista, che si chiama Eugenio Bullini, ha corso il Tour de France perché è un ex ciclista, un gregario. In questo romanzo lui vivrà tantissime avventure, tra le quali quella di prendere parte a una sfida ciclistica, diciamo, amatoriale sì, ma ai limiti della legalità. In questo brano che sto per leggervi, lui è proprio alla partenza di questa sfida e l'obiettivo è quello di ricucire un po' i brandelli della sua vita e della sua famiglia. Aspettando il mio turno per la cronometro che apriva la kermesse, pensai al mio passato e alla rocambolesca esperienza del Tour de France che mi aveva dato tutta quella inaspettata notorietà. Era passata una vita, ma certe emozioni sopite avevano fatto presto a riaccendersi. Ai bordi del cancelletto di partenza si erano radunate migliaia di appassionati e sembrava di essere proprio alla Grand Boucle. Una folla colorata e festante, bambini in cerca di autografi e il solito caravanserraio di coloro che da quell'avventura ci avrebbero guadagnato. Mille facce e tanti occhi che si assomigliavano, esseri umani che condividevano lo stesso spazio e la stessa passione. Persone. Tante. Più di quante mai avrei creduto. Chiunque mi avesse visto avrebbe notato sul mio volto un'espressione malinconica. Che c'è in fondo di più triste di una grande festa? E là, sotto la Torre Eiffel, in quel momento, ce n'era tanta di tristezza. E anche un tempo di merda, con un'atmosfera da marmitta zincata che ero certo Lapo, mio figlio, non avrebbe sopportato. Alzai gli occhi un attimo verso il cielo. Minacciava di piovere. Mi chiamò lo starter e fu il mio turno. Ringraziamo Angelo per averci letto questo estratto da Sfida all'OK Dakar, che è un romanzo molto bello, io l'ho letto, e una visione, un punto di vista originale sul mondo del ciclismo. Ci sono le cronometro, ci sono tanti altri aspetti. Le cronometro, insieme anche ovviamente al Ventoux che verrà prima delle cronometro, decideranno anche un'altra parte della classifica che noi seguiamo con grande attenzione, che è quella che assegnerà la lanterna rossa, vero Cautz? Vero, verissimo, una classifica che purtroppo ha vissuto un lutto, forse sì. È il motivo per cui per qualche giorno non ci avete sentito, perché il ritiro di Morkov è stato un colpo basso per noi, forse anche più di quello di Contador. Detto ciò, si è liberata questa lanterna rossa da un padrone che sembrava certo, e nell'anno sempre della Brexit la lanterna rossa in questo momento è in mano a un irlandese, Sam Bennett della Bora Argon, a 2 ore 22 minuti e 11 secondi di ritardo da Chris Froome. Si è costruito un bel tesoretto, dovrà superare le Alpi, ma occhio occhio, perché dietro irrompono i veri professionisti di questa classifica, ovvero Bach, che è già secondo, Archbold si è infilato terzo, e poi stanno rimontando Aisel e Howard, che sono due che fanno paura. Davvero. Sì. Guarda, se dovessi dare un pronostico, io forse direi Howard. Non Bach, io forse direi Bach in questo momento, però. Però Leo, Howard è quello che è finito nel canale. È vero, giusto, quindi... Giro d'Italia. Dici che c'ha delle carte da giocarsi a sorpresa. Sai, di fiumi la Francia è piena, quindi... Giusto. C'è la Garonne adesso, credo, lungo il percorso. Ce lo sa dire forse meglio Riccardo, che ci presenta la tappa di questo pomeriggio. Sì, oggi si parte subito in salita, si arriva nel punto più alto del tour, poi giù in picchiata si passa per Revel, c'è un ultimo strappo finale di 1800 metri al 6%, che potrebbe creare un po' di selezione. Non so, favoriti, un nome nuovo, Sagan, magari qualche velocista che è riuscito a rimanere lì, non so, penso a Coquard, non so, cosa dite voi? Sì, io non credo che Coquard possa resistere con un arrivo del genere, possa arrivare con gli altri. Invece mi aspetto forse il movimento di qualche nome interessante, magari qualcuno che è al ridosso della top 10 e vuole provare a fare un po' di confusione. La butto lì, Valverde ci sta sempre bene quando c'è da far confusione, chissà. I miei favoriti su una tappa disegnata così sono due che a Revel hanno già vinto, ovvero Savoldelli e Vinokurov. Sarebbe bellissimo, sarebbe fantastico. Tra l'altro Vinokurov mica doveva decidere nel weekend cosa fare, se tornare alle corse, Francesco. Sì, ma infatti ha anticipato la bomba e sì, arriverà direttamente in picchiata verso l'arrivo, quindi si inserisce al chilometro 100 direttamente nella corsa. Aspettiamo dunque di vedere l'attesissimo ritorno di quel ciclista adorabile che era Alexander Vinokurov. Nell'attesa direi che andiamo a goderci la tappa di oggi, che ormai è prossima a iniziare. Tocca a un altro momento adorabile della nostra trasmissione, che è la sigla finale. È la musica che ci accompagna, questa invece sempre, fino a fine Tour de France. E vi promettiamo che prima o poi faremo suonerie e quant'altro che vi permetteranno di ascoltare Dino Zandegu quando e dove vorrete. Ciao! Se puoi fare anche le emoticon di Zandegu, io sarei ancora più contento. ci lavoriamo. Ciao a tutti, buona tappa e buon tour. Ciao! Vieni al Tour de France, vieni insieme a me. Un giro come quello al mondo non ce n'è. C'è la maglia gialla, la maglia Pua. Poi chi vince il tour nella storia entrerà. Olè!